Halloween. Il suo successo commerciale è incontestabile. Halloween è la festa per travestirsi, decorare la casa e il giardino, offrire caramelle ai bambini. Una festa per tutti. Ma cosa c'è dentro la zucca? Le origini. Molti pensano che Halloween abbia avuto origine con la festa di Ogni Santi. Ma ciò non è vero. Ogni Santi, che ha avuto origine nella Chiesa Cattolica, era inizialmente celebrata in maggio. Nell'anno 834 venne spostata da maggio a ottobre al fine di sovrapporsi a un'antica festa druidica che aveva luogo l'ultimo giorno di quel mese. Le origini di Halloween risalgono agli antichi druidi celti, circa 2000 anni fa. I Celti vivevano in ciò che oggi è la Francia, l'Inghilterra, il Galles e la Scozia e celebravano la vigilia del nuovo anno il 31 ottobre in onore di Samhain, il principe della morte. I Celti credevano che in questo giorno gli spiriti malvagi dei morti ritornavano per creare confusione e caos fra i viventi. La festa doveva placare Samhain e gli spiriti dei defunti. La vigilia di Samhain e altre pratiche occulte hanno dato origine a molte delle tradizioni che oggi fanno parte di Halloween. Il nome Halloween deriva dall'inglese. Il primo novembre è il giorno di tutti i santi. In inglese All Saints Day e la vigilia del 31 ottobre viene chiamata All Hallowed Eve, vigilia di tutti i santi, che è poi stato abbreviato in Halloween. La storia della zucca. Il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa. Deriva da una leggenda che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo. Si racconta che un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vendette l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontrò nella notte di Halloween e gli offrì da bere. Il diavolo accettò a condizione che Jack pagasse. Dopo aver bevuto, Jack mise in dubbio che il diavolo fosse in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa volesse. In questo modo lo imbrogliò e lo fece trasformare in una moneta per pagare la bevanda. Prima che il diavolo riuscisse a riprendere la sua forma normale, Jack prese la moneta e la mise in tasca vicino alla croce d'argento per impedirgli di ritornare come prima. Il 31 ottobre. Questa data è importante, non soltanto nella cultura celtica, ma anche nel satanismo. È uno dei quattro sabbat delle streghe. I primi tre segnavano il tempo per le stagioni benefiche. La risurrezione della terra, dopo l'inverno, il tempo della semina, il tempo della messe. Il quarto sabato marcava l'arrivo dell'inverno e la sconfitta del sole freddo, fame, morte. La pozione magica, il druida di un noto fumetto, si presenta come un saggio sacerdote e un filosofo. Insegna alla gioventù l'essenza della vita e dunque il senso della morte. Secondo la religione celtica, questa non era altro che un viaggio. La vita continuava altrove. Dedicando il loro culto alla natura, i Celti praticavano anche sacrifici, animali e umani. Denominatore comune? La festa cattolica romana di Ogni Santi non è legata a Halloween. Venne instaurata da Ivi, Papa Gregorio, nell'anno 840. D'altronde, originariamente si celebrava in maggio e non il primo novembre. Fu nel 1048 che Odilo de Cluny decide di celebrazione, spostare cattolica novembre a detronizzare Samhain. In inglese la vigilia All'inizio. Fine. Al culto il. La. Per liberarsi il diavolo fece un accordo, promettendo a Jack che l'avrebbe lasciato in pace per un anno se lo liberava. Jack acconsentì pensando che avrebbe avuto tutto il tempo per cambiato vita e che il diavolo l'avrebbe allora lasciato in pace. Ma poi non si curò della sua risoluzione, né di sua moglie, né dei poveri, e non andò mai in chiesa, come aveva pensato. Così che il diavolo ritornò l'anno successivo a Halloween per prendersi Jack. Ma anche questa volta Jack riuscì con uno stratagemma a ingannare il diavolo, facendogli promettere di lasciarlo in pace per 10 anni. Ma l'anno dopo morì. Gli fu negato l'accesso al paradiso e così si diresse verso l'inferno. Ma il diavolo, furioso della sconfitta subita, gli impedì l'accesso al regno delle tenebre e lo spedì sulla terra a peregrinare come un'anima in pena, poiché l'aveva ingannato. Mentre Jack vagava nelle tenebre, per la terra, cercando un posto per riposare, mangiò una rapa. Il diavolo gli lanciò un pezzo di carbone ardente dalle fiamme dell'inferno. Jack, disperato per la sua ricerca, prese il carbone e lo mise nella rapa per illuminare il suo cammino. Da allora, quando si vedono i fuochi fatui nelle zone paludose, ci è l'usanza di dire che sia Jack con la sua lanterna, Jack-o'-lanterna, alla ricerca di un luogo di riposo. Più tardi, la rapa fu sostituita dalla zucca. I simboli, pipistrelli, gatti neri, la luna piena, streghe, fantasmi. Questi simboli hanno poco a che vedere con la vigilia di Samhain. Si tratta però di simboli usati nel mondo occulto che hanno trovato un posto naturale nella festa di Halloween. Le notti di luna piena sono il momento ideale per praticare certi riti occulti. I gatti neri vengono associati alle streghe per superstizione, meno si credeva che le streghe potessero trasferire il loro spirito in un gatto e per questo ne avevano sempre uno. Ai pipistrelli vengono attribuite capacità occulte, perché hanno caratteristiche di uccello, che nel mondo occulto sono simbolo dell'anima, e di demonio, perché vivono nelle tenebre. Nel Medioevo si credeva che sovente il diavolo si trasformava in pipistrello. Diviene così chiara la ragione per cui il pipistrello è diventato parte di Halloween. Nel 1999 queste due immagini si trovavano sui bicchieri della Coca-Cola e sulle buste di patatine di un noto fast food. L'importanza dell'occulto. Le origini di Halloween sono strettamente connesse alla magia, alla stregoneria e al satanismo. Gli adepti del satanismo e della magia riconoscono nel 31 ottobre uno dei giorni più importanti nell'anno, la vigilia di un nuovo anno per la stregoneria. A causa delle sue radici e della sua essenza occulta, Halloween apre una porta all'influsso occulto nella vita delle persone. L'enfasi di Halloween è sulla paura, sulla morte, sugli spiriti, la stregoneria, il costume di Halloween. Nella cerimonia celtica i partecipanti dovevano vestirsi con pelli e teste d'animali al fine d'acquisire la forza dell'animale rappresentato e spaventare così gli spiriti malvagi che erano presenti. Nel corso del tempo i costumi si sono trasformati fino a rappresentare il soggiorno dei morti, prendendo così a Samhain il culto che gli è dovuto. Dei gatti. I capri espiatori. Negli Stati Uniti succede un fenomeno. La vigilia di ogni santi. Curioso. Scompaiono neri. La protezione degli animali di Chicago, sorpresa dall'esplosione di questo fenomeno di scomparse misteriose alla fine di ottobre, ha deciso di vietare l'adozione di questi neri felini durante la stagione di Halloween. Soltanto simboli? Leggendo, forse, queste informazioni su Halloween, dirai, può anche darsi che questa festa abbia origini occulte. Ma io non me ne occupo quando faccio festa. Dopotutto, sono soltanto dei simboli. le zucche, le candele, i costumi e tutto il resto. Soltanto simboli? I simboli non hanno significato? Una croce sono soltanto due linee perpendicolari? Se questi simboli non hanno alcun significato, perché non togliere la croce dalla chiesa e sostituirla per esempio con una svastica o un cranio con due tibie incrociate? Ovviamente questo sarebbe blasfemo, meno me ne è altrettanto, ovviamente. I simboli non sono privi di significato? Non ne intagliare zucche. Perché travestirsi e cavalcare una scopa? In queste cose non c'è niente di male. Sappiate tuttavia che esistono forze spirituali e malefiche e che ci sono persone che non giocano quando invocano i morti e cercano il contatto con le forze occulte. Pastore Malcolm White, che cosa dice la Bibbia? Finora abbiamo parlato delle origini, della storia e del presente di Halloween. Sono anche stati discussi i simboli di questa festa. Ma la domanda più importante è questa. Che cosa ne dice la Bibbia? Halloween non si trova nella Bibbia. Però la parola di Dio è il libro che contiene i principi divini che si applicano in modo pratico in tutti i settori della vita quotidiana. Studiandola attentamente si possono scoprire delle indicazioni che potrebbero riferirsi a questo genere di festa. Il primo riferimento lo troviamo nel Nuovo Testamento. Nella seconda lettera che Paolo ha scritto a Timoteo, egli dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di amore e di disciplina. Seconda lettera Timoteo 1:7. Se pensiamo a case stregate, pipistrelli, spiriti, streghe, e Jack O'Lantern, il loro denominatore comune è la paura che incutono. Ma Dio dà ai suoi uno spirito di forza, non di paura. Gli altri passaggi sono molto più espliciti. Sono rivolti al popolo di Dio, quello che lui ha scelto per essere santo, speciale, messo da parte, per mostrare quali sono le intenzioni di Dio per gli uomini. Indico solo tre riferimenti. Quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Deuteronomio 18:9-14. Le cose occulte appartengono al Signore, il nostro Dio. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché legge. In pratica, mettiamo Deuteronomio 29:29. Non rivolgetevi ai medium e ai maghi, non consultateli, per non contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore, il vostro Dio. Levitico 19:31. Le parole di questa. Perché non intagliare zucche, travestirsi e cavalcare una scopa? In queste cose non intagliare è niente di male. Sappiate tuttavia che esistono forze spirituali e malefiche e che ci sono persone che non giocano quando invocano i morti e cercano il contatto con le forze occulte. Pastore Malcolm White, domande aperte. Perché questa attrazione per l'occulto, la morte, la paura, i personaggi lugubri e mostruosi legato al mondo delle tenebre? Da dove viene questa ricerca del macabro, del sinistro, del lugubre? È forse la fine del razionalismo e il ritorno al Medioevo, oppure semplicemente un modo innocuo di ridere per esorcizzare le nostre paure, se poi aggiungi certe serie, televisive, film o cartoni animati che presentano fantasmi, vampiri e talvolta serial killer, ti poni alcune domande. Quale eredità vogliamo trasmettere? La nostra società è in preda alla depressione, alla violenza e alla morte. Non sarebbe meglio promuovere dei valori positivi, degli atteggiamenti morali e spirituali che edificano la personalità dei conclusioni e consigli per chi vuole seguire il Signore? Questo testo è stato scritto per i cristiani, per aiutarli a valutare le loro attività in questo giorno e per coloro che vogliono sapere quali sono i pensieri di Dio su questa festa. La Bibbia afferma che la luce non ha niente in comune con le tenebre, seconda lettera ai Corinzi 6:14. La mia convinzione è che, se sono un cristiano e se amo il Signore, non posso permettermi di partecipare a una festa in cui il Signore Gesù non ha posto, anzi che va contro la sua volontà. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Lettera agli Efesini 5:11. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Lettera agli Efesini 2:10. Proprio in questo momento il mondo intero e ogni persona si trova in mezzo a un combattimento spirituale. Non dimenticare perciò di pregare per un muro di protezione della tua casa, per la tua famiglia e per gli altri. Un passaggio biblico ci insegna quale deve essere l'atteggiamento dei cristiani per uscire vittoriosi dal confronto con il mondo delle tenebre. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Lettera agli Efesini 6:11-18. Osservazione a satanisti e streghe. Ci sono streghe, satanisti, occultisti che affermano di non adorare Satana, oppure di non credere che esiste. È comunque strano che un satanista non creda all'esistenza di Satana. Ma anche se un satanista dice di non adorare Satana, le sacre scritture affermano in modo chiaro e inequivocabile che le pratiche e i diritti pagani, satanici e magici sono di origine demonica. Perfino la legge "fai ciò che vuoi ma non far male a nessuno" è una forma di ribellione contro Dio. Il suo inizio è stato nel giardino di Eden. Forse anche tu sei implicato in cose occulte consapevolmente o in modo inconsapevole. In questo momento il Signore ti offre il perdono per tutto quello che hai fatto e ti dà la possibilità di diventare suo figlio. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima lettera di Giovanni 1:9. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, che hanno ricevuto Gesù, Egli, Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, nel nome di Gesù. Vangelo di Giovanni 1:12. Approfondimenti e proposte. Da qualche tempo, Halloween seduce anche degli insegnanti che desiderano nutrire l'immaginazione dei ragazzi e aprire nuove vie per l'espressione diversificata. Però, senza rendersi conto, queste attività pedagogiche esaltano la paura, l'irrazionale e la morte. A prescindere dall'innegabile interesse del giovane pubblico, si è preso il tempo per analizzare i fondamenti di Halloween i processi educativi che derivano dalla partecipazione dei ragazzi? È una festa banale, educativa o nociva? Possibili proposte. Cercare attività alternative per i giovani nel periodo di Halloween. Scrivere ai commercianti o alle scuole quando viene proposto di celebrare Halloween. Glossario Celti. Popolazione diffusa nell'Europa centro-occidentale, Francia, Inghilterra, Galles e Scozia. Nel corso del primo millennio a.C., la loro presenza è stata riscontrata in un'area compresa tra le isole britanniche, la Spagna e il Basso Danubio. Nel IV secolo, parecchie tribù penetrarono nell'Italia. Druida. In Gallia, Britannia e Irlanda, i druidi erano una classe sacerdotale custode delle tradizioni religiose dei Celti, da un termine celtico che significa molto sapiente. Galles, parte sudoccidentale del Regno Unito. 20 minuti 768 km quadrati, 3 minuti 000000 di abitanti. Gallia, nome dato nell'antichità al territorio che è l'attuale Francia. Halloween, vigilia d'Ognissanti. Si celebra il 31 ottobre e segna la vigilia dell'inizio dell'anno celtico. Jack-o'-lantern, lanterna, fatta con una zucca vuota. Sabba. Convegno notturno delle streghe. Il termine sabba deriva dal fatto che tali riunioni hanno luogo di sabato. Samhain, dio celtico dei morti. Fonti consultate. Per redigere questo testo ho attinto a queste fonti. La Bibbia, Microsoft Encarta 98. Rob Hurt, The History of Halloween and the Word of God, Internet. The Gishes, The Origins of Halloween, Internet. Halloween@venement.org, Internet, 2003 CDM e altri siti Internet.